Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un Abuso al Giorno. Subito la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, e il blog, uno strumento nuovo con il quale dialogare con me. Il mio blog è Guardie o Ladri, sull'home page del Sole 24 Ore, o se preferite robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Allora, in questi giorni avete seguito le vicende sui giornali, avrete sicuramente sentito almeno un telegiornale o avrete orecchiato per radio delle vicende annose, forse l'ennesima vicenda dei suini alla diossina, dei bovini, forse anch'essi contaminati. Insomma, un cibo che da un po' di tempo non è così sicuro come appare, anche quando è bello e florido. Per cercare di approfondire il discorso sulle frodi alimentari, sui controlli che vengono fatti per dare maggiore sicurezza al consumatore europeo, perché ormai di questo bisogna parlare, se non addirittura un consumatore globalizzato, noi oggi abbiamo il piacere di parlare con chi nella Commissione europea ricopre il vertice più alto, possiamo dire, nella catena dei controlli. La dottoressa Paola Testori Coggi, biologa di formazione, che è direttrice generale aggiunta per la salute e la tutela dei consumatori presso la Commissione europea. Buongiorno, Testori Coggi. Buongiorno, buongiorno. Come allora, primo messaggio vorrei dire, prego, ai nostri ascoltatori, che capisco la sua introduzione, però io al contrario di lei vorrei dare invece un messaggio rassicurante. Assolutamente, siamo qui per questo, prego. E le spiego. Innanzitutto dobbiamo capire che la diossina è un contaminante ambientale. La diossina, che ci piaccia o non ci piaccia, esiste nell'ambiente, perché dovunque c'è un processo di combustione si produce diossina. Vi ricordo che se voi fate il barbecue in estate e bruciate la carne e si bruciano alimenti, anche lì ci può essere della diossina. Quando bruciate il pane, anche lì c'è della diossina. Quindi la diossina è un contaminante ambientale che, si forma durante i processi di combustione, quindi è un rischio comunque sempre presente. E il caso che abbiamo oggi, l'emergenza che gestiamo oggi, è questa, appunto, che durante la produzione di mangimi, attraverso un processo di combustione, erano dei rifiuti, diciamo, di panetteria che venivano scaldati per essere seccati. Molto probabilmente si è usato un olio, insomma il processo di combustione è stato fatto male e quindi si è trovata della diossina nei residui di pane, nei rifiuti di pane, che poi sono stati dati ai maiali, sì, e da lì nel maiale si è accumulato. Perché, ecco, il problema della diossina è purtroppo anche che si accumula, cioè la diossina, se uno la mangia, va a legarsi alle molecole di grasso e rimane nel corpo. Ecco, io direi di rimanere sulla vicenda che personalmente a tutti noi sta più a cuore, vale a dire la catena dei controlli. Un anello di congiunzione tra queste recenti vicende irlandesi e la vicenda forse anche molto pompata dai media della mucca pazza è il mangime, cioè è quello che unisce quella vicenda all'attuale vicenda. Ed allora le chiedo, sui mangimi quali sono i controlli? Qual è la catena dei controlli che può rendere il consumatore italiano sicuro sulla bontà di ciò che mangia l'animale, che poi alla fine viene macellato e quindi arriva alla fine di tutto sulle nostre tavole? Ecco, nei mangimi, cioè queste industrie che producono mangimi sono assoggettati a dei controlli da parte delle autorità competenti e devono loro stessi, cioè gli operatori, devono loro stessi avere un'analisi dei propri procedimenti o processi per identificare se ci sono delle possibili contaminazioni. Il problema dell'industria di mangimi, perché non è il primo caso che succede, tra l'altro, una contaminazione da diossina, perché? Perché purtroppo noi abbiamo produttori di mangimi anche molto piccoli, molto dispersi. I produttori di mangimi sono quelli che, per esempio in questo caso, raccolgono rifiuti dalle panetterie e che li preparano per dargli agli animali, quindi non è un'industria, una grande industria, ma è un'industria dispersa, locale, a volte piccola, e quindi è un'industria dove a volte può succedere una mancanza come qua, certo. un problema. L'importante, quello che io dico sempre ai consumatori, è che noi abbiamo una catena alimentare, abbiamo una tracciabilità e a un certo punto si decide di intervenire, come qui, per esempio, pensiamo all'Italia. L'Italia ha ricevuto, ci sono circa 1400 tonnellate di questi maiali irlandesi che sono stati esportati in Italia, ci sono 22 stabilimenti che l'hanno ricevute, questi 22 stabilimenti stanno facendo il ritiro dal mercato. Ecco, ma mangiare italiano è più sicuro? Il mangiare italiano è sicuramente molto controllato, l'industria alimentare italiana è un'industria che investe molto nei controlli, le autorità italiane hanno dei controlli molto elevati, non voglio esprimere giudizi rispetto ad altri paesi, dico soltanto che in Italia i controlli, voi lo sapete perché tutte quelle frodi che sono state scoperte proprio perché ci sono dei controlli, certo. Quindi posso dire sì che il sistema Italia funziona. Ecco, lei prima faceva riferimento alla dispersione, alla polverizzazione di queste imprese che in tutta Europa poi raccolgono del materiale di scarto che diventa poi con un processo di elaborazione industriale o comunque simile industriale del mangime per gli animali. Le chiedo, questa vicenda dei suini irlandesi alla diossina, è un'eccezione? È la testimonianza che i controlli funzionano? Oppure per un caso di un suino alla diossina che si scopre, ce sono 10 che invece non si scopriranno mai? Mi sento di dire, di confermare che è il secondo caso. Qui siamo di fronte, se ci sono nella catena alimentare dei problemi di accumulo di diossina, vengono scoperti. Io non voglio citare il caso italiano, perché si è scoperta la mozzarella in Italia? Perché i governi devono fare un monitoraggio sulla diossina, proprio perché sappiamo che la diossina è un contaminante rischioso ma molto presente, quindi per la diossina ci sono dei programmi di monitoraggio obbligatori che tutti gli stati devono applicare. Ecco, per la diossina funziona così, e invece per quelli che sono gli altri rischi, magari chimici o industriali, possiamo essere ugualmente rassicurati? Oppure ci sono dei passi? Per quelle molecole che sappiamo che sono, per quei contaminanti che sappiamo che sono a rischi, ci sono dei controlli. Lei sa che a seconda, proprio dipende dalla quantità di carne, di formaggi, di latte che un paese produce, deve effettuare un certo numero di controlli, i numeri di controlli sono proporzionali alla quantità, e questo appunto per scoprire i casi di contaminazione. Io non dico che la contaminazione non c'è, c'è, perché viviamo in un mondo dove ci sono le industrie chimiche, ci sono le emissioni, ci sono i rifiuti, quindi la contaminazione c'è, l'importante è avere degli strumenti che ci permette di identificarla, come in questo caso lei mi dirà con distanza di un mese, due mesi, è vero, ma l'importante è scoprirla. L'importante è scoprirlo, certo. E quando la si scopre, intervenire. Ricordo che qui il governo irlandese sta pigliando una misura veramente molto drastica, perché sta ritirando dal mercato tutta la produzione di maiale dell'Irlanda, perché c'erano 10 stabilimenti che erano contaminati, quindi gli stabilimenti contaminati rappresentavano circa il 6-7% della produzione. Sì, non arrivavano al 10, quindi ha fatto di tutta un'erba. Loro hanno deciso appunto per dare fiducia al consumatore, per fargli capire che si interviene, hanno ritirato tutta la produzione al 1° settembre, ecco. Quindi noi stessi abbiamo detto l'intervento è stato drastico, severo e più è risolutivo almeno dal punto di vista delle partite attualmente in commercio appunto ritirate. Il portale dell'ANSA ieri riportava una sua dichiarazione nella quale diceva: ma l'etichetta obbligatoria sì, però in realtà è già abbastanza facilmente possibile risalire all'origine, alla catena dell'alimentazione. Lo conferma? Io le dico sì, lo confermo, perché oggi a livello comunitario noi identifichiamo le mucche una per una, cioè ogni mucca è come un individuo, ha un passaporto e viene identificata in tutti i passi della catena. Per tutti gli altri prodotti animali abbiamo un'identificazione, ma che rimane presso l'operatore, rimane presso il macello, presso il distributore, ma non c'è il passaporto che segue il pezzo di carne fino sul banco dove noi lo compriamo. Ma per i maiali finora non è stato ritenuto necessario, perché al momento quando uno introduce questa identificazione individuale per ogni capo vuol dire dei sistemi molto complessi e molto costosi. Dottoressa Testori Coggi, io la ringrazio molto per questa chiacchierata che abbiamo fatto, ci auguriamo che i controlli continuino a funzionare così come stanno funzionando. Un'ultima domanda al volo: il fatto che ci sia un italiano alla testa di questa struttura, come viene visto dai vostri partner, dai nostri partner? partner europei? Direi che gli italiani sono una nazionalità che in genere è molto ben voluta in tutto il mondo, quindi ci facilita essere italiani. Benissimo, benissimo, meglio così. Sono particolarmente contento di questo. Io ringrazio in studio Laura Faggin, in regia Pietro Lacorte, ringrazio ancora Paola Testori Coggi, che è direttore generale aggiunto per la salute e la tutela dei consumatori presso la Commissione europea, Roberto Galullo, ricordandovi ancora una volta l'indirizzo mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi auguro una buona giornata, vi dà appuntamento a domani.